Questo è un antipasto, che è per certo il dessert. Vai, vai. Ecco, non volevo questa battuta ed è per questo motivo che era una cosa preparata già internos. E comunque, la nuova finanziaria di Monti che vogliono approvare alla Camera e al Senato prevede un giro di soldi di circa 30 miliardi di euro, di cui 12 sarebbe una riduzione della spesa e 18 di nuove entrate. Quindi nuove entrate che dovremmo pagare noi con i soldi. Lì, nuove entrate, perché sappiamo dove escono, ma sappiamo anche dove entrano per noi. Questo è logico. Comunque tutta l'aula ci guardano brutti, come a dire, cosa stanno dicendo questi qui? Comunque, a detta di Monti, questa finanziaria deve garantire la stabilità, la crescita e l'equità. Non so fino a che punto. Iniziamo quindi subito con la prima riformulazione delle cose che ha fatto Monti con l'IRPEF, che l'IRPEF, come ben sapete, è l'imposta sul reddito delle persone fisiche. È un'imposta sul possesso del reddito che può essere sia in denaro che in natura. Non pensate in natura chissà come, giovani, sarebbero terreni, imprese, eccetera. È un'imposta progressiva perché colpisce il reddito con delle aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni. E si può pensare che dal 2003 fino ad oggi gli scaglioni sono stati ristretti, tipo si parte da reddito da zero fino a 26.000 euro, tipo, e quindi anche chi ha un reddito inferiore, tipo ai 7.000 euro, deve pagare lo stesso questa aliquota IRPEF. Mentre una volta chi aveva un reddito minore di 7.000 euro era esentato da questa tassa. In più, la manovra che cosa va a prevedere? Va a fare un aumento dell'addizionale IRPEF, che va dallo 0,9 all'1,23%. E una parte va ai comuni, e una parte va allo Stato. E bisogna anche dire che queste aliquote possono essere anche aumentate da parte dei comuni, e hanno un aumento che possono fare dello 0,4%. Sempre partendo però dall'1,23. Questo ricordiamo. Tagli tasse. Aiuto. Però io volevo dire una cosa, ma se l'IRPEF e l'IMU colpiscono, abbiamo capito chi, cioè i cittadini semplici, gli enti locali, insomma, chi che comunque pagano e vengono tartassati, c'è qualcosa anche per qualcosa tipo, che so, i vitalizi, imprenditori, cose del genere, o no? Sì, ma li vedremo dopo, mamma come avete fretta, qui c'è un ordine ben preciso delle cose. È una questione di priorità, allora. È logico, cioè la casta viene colpita dopo perché è casta, sennò perché deve essere colpita dopo per forza. I cittadini prima perché danno più sordi. La casta costa, giovane. Poi comunque andiamo avanti con... Hanno messo di nuovo la tassa sull'ICI, quindi sulla prima casa, seconda e terza casa. Ecco, Peppe mi anticipa proprio che non si chiama più ICI, ma si chiama IMU. Che se l'IMU sarebbe l'imposta municipale unica, giovanotte, e viene prevista quasi unicamente, quindi cioè, ci sono altri piccoli addizionali, ma la quota maggioritaria è l'imposta sulla prima casa, che se è casa unica e quindi abitazione principale, si prevede una detrazione di 200 euro, mentre su seconde e terze case ci sarà un aumento progressivo dell'imposta. E anche per questa tassa va sempre una parte ai comuni e una parte allo Stato. In più i comuni possono andare a fare un aumento della percentuale sulle seconde e terze case, però sempre su posizioni, diciamo, ben definite e nette. Ora invece andiamo sull'IRAP, che va a colpire soprattutto le imprese. E infatti da un sondaggio risulta essere la tassa più odiata per gli imprenditori, soprattutto i piccoli e medi. L'IRAP, come ben sapete, è l'imposta... L'imposta regionale sulle attività produttive. Quindi riguarda le imprese, ed ecco che riguarda le imprese, sia quelle composte da società operazioni, quindi da più soci, o da... Ma l'IRAP, vicino all'Iran. No. No. Bella battuta, sì, è stata molto bella. Applausi. Comunque non è vicino all'Iran, ma è vicino all'Iraq. Ok, perché dopo c'è differenza comunque. Anche perché, sì, giustamente spiegheremo il perché. Comunque va a colpire sia quelle società composte da più soci che quelle composte da una singola persona. e la quota deducibile verrà presa integralmente, perché prima invece veniva presa da solo una parte della quota. Infine, prima del primo stacco che andiamo a fare, con il primo pezzaccio che Peppe ci va a inserire, andiamo a prendere lo scudo fiscale, il famosissimo scudo fiscale che Berlusconi ha fatto rientrare con la sua grandissima manovra la maggior parte dei fondi, dei conti correnti che erano all'estero. Cos'è questo scudo fiscale? Scudo fiscale? Lui che cosa ha fatto? Per... È una cosa bella, scudo, hai capito? Una difesa, significa gli interessi, no? Eh sì, gli interessi degli altri però, non i nostri, questo è logico. Perché quello che ha fatto Berlusconi all'epoca, facciamo lo scudo fiscale per andare a intaccare l'evasione fiscale, cioè ha fatto rientrare i capitali... È buono quindi. Più o meno, ha fatto rientrare i capitali esteri degli italiani, diciamo di quelli più ricchi, perché il capitale fuori non me lo posso permettere, avendolo col capitale, li ha fatti rientrare e ci ha preso, diciamo, dai conti correnti una piccola aliquota, ci ha preso una piccola parte, 5%, 2010. 5% che è? Su 100.000 euro cos'è il 5%? Non è nulla, signore. Non è nulla. No, il 5% è meglio che niente, scusa. Una volta erano evasi totalmente, adesso sono evasi, però, capito, li ha fatto evadere più comodamente. Sì. Immagini il caso che sei un prigioniero, no? E vuoi evadere. E come fai a evadere così? Adesso è più facile evadere se sei prigioniero. Sì, infatti pure sono pure i tagli alla... Sono anche i tagli alla polizia penitenziaria. E comunque, sullo scudo fiscale, quindi per prima di chiudere per il primo stacco, si prevede un'altra aliquota da prendere da questi conti dell'1,5%. E con questi ricavi si coprirà l'inflazione che colpirà le pensioni di 960 euro, dice Monti, questo qui poi non sapremo mai. Ora Peppe ci mette un pezzaccio che si sono... È troppo difficile il nome, comunque è una bella canzone, almeno penso. Bleeding. Salve, questa è Banda Armata su Fuori Onda Radio, la radio che vi connette. Detto questo, io sono di nuovo qui per introdurre semplicemente quello che è la star delle persone star. Cioè, è più star del dato star. Un uomo sulla cui base abbiamo costruito, sulla cui fondamenta possiamo costruire la città del futuro, l'umanità nuova, Luca Abbate. Io pensavo che c'era la sigla, invece non mi ha messo la sigla. Cioè, io pensavo che sono rimasto un pochino deluso, però grazie per la presentazione. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo fatto lo scudo fiscale prima, se non sbaglio, e ora andiamo sui pagamenti. Sì, infatti io l'ho votato pure l'altro giorno nel Consiglio dei Ministri. Io sono un amico di Passera, sono io. È un ministro, comunque, per chi guarda, diciamo. È un ministro, c'è purtroppo. Andiamo con i pagamenti. No, c'è, chi per fortuna, chi purtroppo, c'è comunque, non è che... Comunque, andiamo avanti con la mitica manovra e andiamo a trattare il punto dei pagamenti in contanti. Infatti, si prevede che il massimo per effettuare un pagamento in contanti non deve superare i 1.000 euro, in modo che si abbia la tracciabilità. Questo vale solo per gli acquisti privati, mentre per gli acquisti delle amministrazioni pubbliche non può superare i... I 5 500 euro. Ci ha azzeccato. Su questo punto, sì? Io non ci credo. Ah, così dicono, poi vediamo. Comunque su questo punto, sì. Come, scusa, al microfono dovete parlare, qua fanno anche domande. Quindi, comunque, su questo punto sono anche d'accordo le piccole e medie imprese, purché questo provvedimento venga accompagnato dalla riduzione dei costi di transazione, perché infatti uno per fare un acquisto superiore ai 1.000 euro deve utilizzare una carta bancomat comunque, o una carta di credito, e quindi le banche con le loro tasse, le loro spese che effettuano, si prendono i soldi dagli acquirenti. Ora qui c'è una domanda indiretta, signore, in diretta una domanda, prego. No, dicevo, io che ho i soldi sotto il mattone, no? Se mi voglio comprare qualcosa, che succede? Per forza le devo mandare prima in banca. E se poi la banca fallisce? Ecco, io qui la signorina consiglia, e comprati BTP, no? Scusa, non ho capito io, no, scusa. E io dico, comprati Big Jim. Oppure, hai i soldi sotto il mattone? Dammeli un po' a me, dico, non è che non dico di no. Li accetto ben volentieri. Il problema è che hai i soldi, lo sto risolviamo subito. Ti lasciamo senza niente, vabbè, e finiamo qua. Basta dirlo comunque. Ora andiamo avanti dopo aver risposto alla domanda indiretta, così a bruciapelo. Andiamo, è proprio una domanda indiretta. Cioè. Indiretta, cioè in tutti i sensi. Andiamo a trattare il punto delle imprese. Infatti per queste imprese, per le nuove imprese, viene effettuato un incremento del fondo di garanzia. Non avevamo soldi, facciamo pure aumenti dei fondi di garanzia. E si attesta verso i 20... 20.000? Esagerato, i 20 miliardi proprio... I 20 centesimi? Sì, quasi. 20 miliardi di credito per le piccole e medie imprese. Sono sempre euro comunque 20 miliardi, non dimentichiamolo. E si ha anche un incentivo per il lavoro, per i giovani e per le donne, dove per il sud è prevista una quota superiore rispetto al nord. Almeno questa, una quota, figurati. 15.000 euro dovrebbero essere circa. Quindi, insomma, noi... premiamo le imprese. Cioè, se io faccio, che so, una grande impresa, metto, che so, faccio volare le galline, no? Che gli insegno a volare, faccio una grande impresa, no? Il progresso scientifico, mi devono dare soldi. Cioè, quindi, e poi se mentre lo faccio, sono donna e calabrese, con bababù, è come se avessi vinto l'Enalotto, insomma. Sembra così, caro giovanotto, sembra così. Ma poi tanto c'è l'ira, appunto. Loro ti danno i soldi, poi se li riprendono, no? C'è sempre il trucco, cioè, voglio dire, non è che... Cioè, tipo, io do i soldi dalla porta e poi me li prendo dalla finestra, no? Quindi non è vero questa cosa che occhio non vede, culo non duole, insomma. No, purtroppo non c'è questa cosa che... Ora andiamo sulle cose che mi diceva all'inizio per la casta, che la casta costa. Ma prima della casta andiamo a fare la tassa sul lusso. Infatti è stata prevista una nuova tassa su elicotteri, aerei, privati. E le auto molto potenti, proprio molto potenti però. Tipo Lambretta, Sì, tipo a 500, a 126, le macchine là sono molto potenti. E qui, in poche parole, comunque si va a rigenerare una vecchia ricetta del, che è il Super Bollo. Infatti per le auto molto potenti si va a prevedere un aumento dell'addizionale di 20 euro per ogni kilowatt che si ha dopo i 170 kilowatt. Quindi forse mi sono spiegato male. Prima abbiamo 170 kilowatt, che è la quota massima. Se poi una macchina ha 171 kilowatt, c'è un addizionale di 20 euro. Ora, trovo il convertiamo subito 170 kilowatt in cavalli. Ora vediamo. Non interrompiamo l'abate, per cortesia. E comunque, per quanto riguarda invece elicotteri, nel frattempo che troviamo la conversione, per quanto riguarda elicotteri, aerei privati e barche di lusso, si prevedono scaglioni in dipendenza di peso e dimensione. Qui dalla platea tutti mi guardano strano, non pensate male, cari giovani, che stiamo parlando di barca, aerei ed elicotteri comunque. Anche se fa sempre la gara chi ce l'ha più grosso comunque, e soprattutto le ragazze qui stavano emozionando, no? Zero. Sì, sì, infatti. Qui proprio una notizia che mi buttano proprio in faccia, diciamo. Ed è il Roberto Rosso che si esprime sui tagli ai vitalizi e dice: guadagno solo 5.200 euro di stipendio, sono pronto a fare ricorso al giudice. Cioè, già il titolo dice tutto, la notizia mi si è spenta, perché è una notizia tramite computer, qui siamo poi all'avanguardia. Questo è Twitter. Ah, era solo Twitter. E questo qui è un deputato del PDL, ma anche quelli del PD, non facciamo distinzione perché sono uguali alla fine. Guadagna solo 5.200 euro. Hanno una L in meno. Poi ci sono anche, diciamo, cose che, vabbè, comunque lasciamo stare. E comunque, 170 kW in cavalli sono 231 cavalli, circa, un po' di più, virgola 13, è anche una cosa, comunque. Ora... Come vuol dire, scioglie trecce, cavalli, balla, no. Ora andiamo con il secondo pezzaccio che Peppe ci mette e sentiamo Roberto Ciotti. Well, alright. That's alright now, mama. And now, ladies and gentlemen, gratis from P2 Aula, come si dice in inglese? Vabbè, insomma, per voi Luke Abbate. Grazie, grazie per gli applausi. Presentazione anche in inglese, anche... Aula, come si dice in inglese? Trovate come si dice in inglese Aula, così dopo room, quindi room, ricordo. Room. Ok, ok. Non si chiama room, si chiama whisky Aula. Quindi room per room. Quindi ora c'ho anche la presentazione in inglese, prossimamente anche in altre lingue, non vi preoccupate. Abbiamo già l'albanese scontato quasi. Comunque, continuiamo con la manovra e andiamo a parlare sulla casta, sulle ripercussioni che ci sono sulla casta fatta dal governo Monti. E infatti, mo dicevamo, abbiamo finito tutte le tasse a parte la questione senza sapere che dove dire delle pensioni, abbiamo finito tutte le tasse per i poverelli, no? Ma iniziamo con le tasse per i ricchi, allora, qui iniziamo il occhio grosso. Che vuol dire questo? Che c'è un problema. Problema. Che gioia, che allegria. Adesso che abbiamo finito di tassare i poverelli, adesso iniziamo a tassare i più grossi, no? Quelli che hanno di più. E quindi no, ci saranno poverini, no. Una lista di tasse per i ricchi enorme, no? O no, Zero? Si pensa così. Comunque salutiamo sempre Roberto Rosso, giusto, che si lamenta dei 5.200 euro di vitalizio che prende, mentre gli altri ne prendono 8.000 e passa. Intervistiamo Roberto Rosso. Lei come mai va a fare ricorso ai giudici per un vitalizio di soli 5.200 euro al posto di 8.000? Si corregge? 5.200 lo stipendio, 8.000 di vitalizio e poi? E si lamenta che i vitalizi vengono tagliati di un terzo. Come mai si lamenta che i vitalizi vengono tagliati? No, guardi, queste accuse che lei mi rivolge, non le posso accettare. Cioè, poi, vitalizi. In qualche modo devo pure campare. Bello a me. Io non posso fare altro che dare ragione al nostro deputato PDL, Roberto Rosso. No, ma io lavoro, non è che me l'hai gratto. Io lavoro. È grandissimo Roberto Rosso qui, proprio senza peli sulla lingua. Esatto, facciamo un'ovazione per Roberto Rosso e clicchiamo tutti quanti mi piace su questa. Non me l'hai gratto. E dopo Roberto Rosso andiamo a vedere cosa succede sulla casta, dove innanzitutto i doppi incarichi vengono tolti, solo per chi governa. Tipo, i soggetti richiamati all'ufficio di presidenza della Presidenza del Consiglio, ministri e sottosegretari, per tutta la durata dell'incarico cessano qualsiasi altro incarico retributivo che grava sulle caste dello Stato. In più si prevede anche una riorganizzazione delle caste provinciali, e la parola caste provinciali non è detta a caso perché ci sono, c'è la riduzione sia del numero dei consiglieri e anche dei membri facenti parte delle varie commissioni. In futuro si prevedono altre misure e comunque anche quelle dei vitalizi di cui parlava il nostro Roberto Rosso, che vengono tagliati di un terzo e giustamente si lamentano anche loro. Quindi hanno tagliato i membri. Anche i membri li hanno tagliati, quindi questo in tutti i sensi, signori, in tutti i sensi. Sono stati, ecco, come mi suggeriscono, castati però, castati. Ora ci sono i tagli e non c'è la R. Ora andiamo a vedere un altro tipo di misura che c'è, che va a prevedere sempre tassi, in poche parole. Il metro prendiamo ora come misura? No, sempre i soldi, sempre gli euri però, occhio euri. Andiamo a prendere l'IVA. Infatti l'IVA, signori, verrà a fare un aumento. Dopo l'aumento che ha fatto Berlusconi dell'1% per andare a recuperare fondi, diciamo, per debito pubblico, ora l'IVA verrà aumentata ancora del 2%. Prego, c'è una signorina che vuole parlare. Ma questo l'hanno fatto perché il numero 23 porta fortuna, non per altro. Ma vedi che ho il 13 o il 17 secondo usanze, no? Il 23. No, il 17 e il 13 portano sfiga, il 23 dici che porta fortuna. Il 23 porta fortuna, ma... Comunque, questo tipo di tassa, comunque, porta soldi alla fine e porta meno fortuna perché deve pagare. E viene posta sotto un articolo della riforma con il nome di clausola di salvaguardia. Infatti si prevede che questo tipo di tassa viene inserita solo quando c'è il caso di necessità, tipo che i fondi non vengono recuperati come si prevedeva. E inoltre dal 1 gennaio del 2014, quindi fra 2 anni, perché ormai siamo al 2012, se è necessario, si possono incrementare ancora questo il prezzo dell'IVA dello 0,5%. Ma l'IVA chi è che la paga? Che cos'è sta IVA che non ho capito? Che IVA era la mia compagna di banco alle elementari, però chi se non ti posso dire? Diciamo, l'IVA è la tassa sul valore aggiunto che andiamo a pagare su ogni prodotto che acquistiamo. Quindi se tu per esempio vai al supermercato e vai a comprare un pacco di pasta, tu lì ci paghi già l'IVA sul pacco di pasta perché quello è il valore aggiunto che c'è. Ma non avevi detto che queste qua erano le tasse per i ricchi? E mo sembra ancora a noi Anessi che questa manovra sta per salvare l'Italia, non ho capito. Adesso mi toccano i macchinini, che coglioniamo a Lella. Ma secondo te se i ricchi sono là, al Parlamento, si tastano loro? No, rispondo con una domanda. Io ho capito che cosa tu mi vuoi dire, che vuoi dire quel proverbio lì, bello, che dice che se la merda avesse in qualche valore, i poveri nascerebbero senza buco del culo, insomma, mi vuoi dire questo? Più o meno. Allora facciamo una cosa, io commissario questa banda armata per il momento e dico Peppe, lancia un pezzaccio. shok dhe shoqe, vazhdon ndërhyrje mrekullueshme e Lukës. Për ju, banda Abate. Ecco, dopo la presentazione, diciamo, grossolana, fatta nella base, che ho capito tutto quello che ha detto. Ne va via, come se non avessi capito nulla, però... Cioè, non mi è piaciuta tanto, non so tu cosa ne pensi. Soprattutto nel passaggio, almeno complessivamente è andata bene, secondo me. Però ho apprezzato la performance di Regina quando ha detto Luca proboscide. Luca proboscide è stata... Secondo me è stato un passaggio chiaro che nel complesso del discorso ha chiarito molti punti della discussione. Proboscide in albanese, cosa vuol dire? Vediamo... Ah, shock de shoce ci dice. Comunque, dopo shock de shoce andiamo avanti. Sull'IVA dobbiamo fare una piccola precisazione, dove l'IVA è stata aumentata sui beni di consumo, ma non su quelli primari. Diciamo, il mio esempio prima della pasta era solo su cosa paghiamo, andiamo a pagare l'IVA comunque. Soprattutto l'IVA va ad incidere sull'aumento della benzina, come ben sappiamo, che già l'aumento dell'1% dell'IVA aveva fatto già balzare i prezzi della benzina. Pam! Andavano proprio in una maniera assurda. Ora invece, con questa manovra, si prevede una nuova stangata sull'aumento di questo bene, anche fino a 1,7 euro al litro, sia per benzina che per diesel, e si prospettano anche aumenti del GPL. Cosa ne pensi del GPL? GPL è una sigla interessante che nasconde un carburante basato su idrocarburi. Scusi, posso fare una domanda? Ma lei è dell'ENI, quindi mi faccio capire, è troppo... tecnico su queste cose. No, Eni lo vai a dire a tua sorella, va bene. Eni lo vai a dire a tua sorella, va bene. Detto questo, io dico che mo ci stanno facendo proprio arrangiare, basta, non paghiamo più né benzina, né macchine, né auto, né bus, niente. Perché se io voglio andare a trovare zia, ma che sta a Verbicaro, io ci devo arrivare e non è detto che io, se non ho i soldi, non posso andare a trovare mia zia. Se no mia zia cosa dice, cosa pensa, cosa fa? Stiamo rovinando le famiglie! Stiamo rovinando le famiglie! Vai, ecco, stai esagerando. Quindi questo qui comunque era un tecnico dell'ENI sicuro, perché si vede già come si è infervorato, non ha detto ENI, quindi cacciatelo fuori, per favore, cacciatelo fuori. Grazie. I bodyguard sono subito pronti. E ora andiamo al punto cruciale della manovra, che sono le pensioni. Ma purtroppo sono le pensioni, che hanno fatto un bordello sulle pensioni, uno schifo. Infatti, ora si prevede solo il sistema contributivo, che verrà esteso a tutti quanti i lavoratori, perché prima era anche retributivo. Questo provvedimento va a completare quindi la riforma Dini del 1900. E che bia disgraziati, mi hai rotto con una vita! Questa qui è una signora anziana che giustamente si lamenta per le pensioni. Signora ha ragione, posso dire. Comunque... Il provvedimento che ha fatto Monti va a completare la riforma Dini del 1995. Il 5 ci sta sempre bene. Che però non andava a comprendere al suo interno i lavoratori che avevano 18 anni di servizio. Perché prima che fosse stata fatta la riforma Dini, c'era il sistema retributivo. Da Dini in poi, quindi per i lavoratori che iniziavano a lavorare dal 96 in poi, c'era il sistema contributivo, che è tutto diverso. C'è un calcolo della pensione con il sistema contributivo. Ora, che cosa hanno fatto i grandissimi geni del governo Monti? Hanno aumentato l'età pensionabile sia per le donne che per gli uomini, che per le donne è prevista per 62 anni e per gli uomini a 66 anni. E c'è l'innalzamento anche dell'uscita, l'innalzamento della soglia di uscita dal lavoro, che deve essere di 42 anni di contributi. E qua arriva il bello. Se una persona, tipo, se facciamo l'esempio, che oggi un lavoratore all'età di 60 anni, 62 anni, e quindi può andare in pensione un uomo, può andare in pensione con i 35 anni di servizio, e ora non può andare in pensione perché ci va a prevedere che se non fai 42 anni di contributi, ogni anno gli verranno detratti il 3% della quota annua della sua pensione. E questo è il bello della cosa. Infatti, ma spieghiamo meglio la questione di contributivo, distributivo, permutativo, chi le cose là. Cioè, è cambiato sostanzialmente che mentre prima ti facevi i tuoi begli anni di contributi, tanto avevi speso, tanto ti entrava di pensione, giusto? Giusto. Dopo invece è successo che devi fare tot anni... Il lavoro non si basa più sui contributi, ma sugli anni di fatica. E di conseguenza, a un certo punto, se tu inizi a lavorare mediamente 20-25 anni, dai fare un culetto, esatto, un culatello, si escono dalla regia, dalla direzione, esatto. Un culatello che ti porterà ad arrivare fino a 25 più 42 fa? 77. Bravo. E c'è di mezzo che tu alla fine arrivi a 67 anni, che praticamente l'obiettivo comunque è quello di dire meglio che muori lavorando, perché altrimenti poi c'è il problema, giustamente, di fare qualcosa a quelli che arrivano alla pensione, perché se no, giustamente, muori alla pensione, che cazzo fa? C'è gente che si debosciano a mantenere in piedi tutti questi centri per gli anziani, e non è tutto di coglioni, lo devono dire, dicevo, e non è tutto di coglioni. Allora devo per evitare questo dobbiamo farli morire mentre lavorano. E io voglio dire questo, voglio dire pure che se tu sei dipendente statale, non solo ti sono congelati gli stipendi, non sai, magari non ti arrivano, e sicuramente non ti arrivano la liquidazione, ma c'è il fatto che, Luca, la pensione arriva? No, comunque sui stipendi congelati, che giustamente li mettono, diciamo, nel congelatore in modo che si conservano per più tempo comunque, o no? Vero, e nel frattempo infatti aumenta l'inflazione, di conseguenza gli spendi rimangono sempre gli stessi, l'inflazione aumenta, di conseguenza tu hai meno soldi e le cose costano di più. Detto questo, io direi che è il momento per dare un altro colpo di albanesità a questo discorso. Ora però, quindi, per chiudere la questione pensioni, si può dire che sono state abolite anche le finestre di mobilità che avevano portato per l'erogazione della pensione da un tempo di attesa di 18 mesi per lavoratori autonomi a 12 mesi per lavoratori dipendenti. Passiamo al prossimo pezzo, che sarà Stefano Rosso, Anche se fosse peggio. Bussai con timidezza chiedendo un po' d'amore. Mi dissero spiacente, ma non compriamo niente. Così capii che il mondo regala chi non dà, e chi qualcosa chiede potrebbe anche crepar. Bussai con più veemenza, non più con titubanza. Mi dissero: che vuole? Scusate, un'intervista. Così capii che al mondo la gente puoi comprare, te la puoi conquistare facendola parlare. Ho visto gente senza tetto, polli senza petto, ministri senza portafoglio mai. Ho visto un angelo in mutande, reggi semivuoti, spiagge senza vetri mai. E cari amici, adesso lo confesso, se potessi tutto rifarei. E non sarò un poeta, ma anche se la vita fosse peggio, non mi stancherei. Bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina. Mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul cibello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza portafoglio mai. Ho visto tanta neve a Roma, calvi con la chioma, rischi con un giro in più. E cari amici, adesso lo confesso, se potessi tutto mi farei. E non sarò un poeta, ma anche se la vita fosse peggio, non la tradirei. E allora siamo di nuovo in diretta, continuiamo a parlare della manovra, che è sicuramente l'argomento della settimana. Chiaramente è una manovra che contiene tanti provvedimenti, che secondo il primo ministro Monti si dovrebbero inquadrare in una logica in cui tre erano le parole d'ordine: rigore, equità e crescita. Sicuramente la prima parola d'ordine è stata rispettata, perché se non è rigorosa questa manovra non ce ne possono essere altre di molto più rigorosi. Sull'equità, diciamo che c'è molto da ridire. Uno dei provvedimenti che sicuramente è più inutile da questo punto di vista, secondo noi, è l'intracciabilità dei pagamenti oltre i 1000 euro, di cui già poco fa si stava parlando. Vediamo un pochettino cosa consiste. Tutti i pagamenti che devono essere effettuati e che superano i 1000 euro devono essere per l'appunto effettuati attraverso una carta di credito. Ora, questa misura che cosa è atta? È atta praticamente a bloccare, a cercare di limitare il fenomeno dell'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale è chiaramente un fenomeno che possono mettere in atto specialmente coloro che esercitano delle libere professioni. In particolar modo in Italia noi sappiamo che spesso molti medici che esercitano presso i loro studi, gioiellieri, libri professionisti di vario genere, quali avvocati, ingegneri, notai, insomma grossi gruppi corporativi, riescono ad evadere le tasse attraverso la mancata fatturazione dei loro introiti. Che spesso questi come dire, dottori, medici, ingegneri, eccetera, sono quelli che hanno lo studio senza avere magari anche mai studiato, insomma, quindi quelli che ti regalano delle belle sole, o no? Al di là di quelli, ma anche rispettabilissimi professionisti con tanto di riconoscimenti internazionali evadono le tasse dichiarando molto meno rispetto a quello che guadagnano. Questo perché è classico: chi è che non è mai andato da un dentista che dice ok, facciamo 400 euro senza la fattura e 500 con la fattura? E di fronte a queste situazioni, queste richieste, a questi bivi, il povero paziente che dice ok, vabbè, facciamo 400 senza fattura, perché chiaramente 100 euro, togli altri 100 euro di tasca, non è mai così comodo, anche se poi spesso non si ricorda che molti di questi soldi qui poi potrebbero essere scaricati dalla dichiarazione dei redditi, e quindi grosso modo i conti sono gli stessi. Non sono così poi però per chi li incassa questi soldi. Spesso vediamo medici, che dentisti, ripetiamo, liberi professionisti, che guadagnano qualche centinaio di milioni di euro se non più, dichiarare 20, 30, 40 mila euro. La media per i gioiellieri, non voglio scagliarmi contro questa categoria, ma i gioiellieri in Italia dichiarano, non mi ricordo, una 15 mila euro media all'anno di guadagno, che è una cosa veramente ridicola. Dunque, questo provvedimento qui della rintracciabilità dei pagamenti oltre i 1000 euro dovrebbe frenare l'evasione fiscale. Bene, diciamo che questa qui è una foglia di fico, è veramente un provvedimento di quelli che serve a far parlare di lotta all'evasione, ma in realtà è semplicemente una buffonata. È raro nel quotidiano trovarsi a pagare somme superiori ai 1000 euro, perché ne so, per una prestazione medica, per essere andati ad otturare un dente dal dentista, per aver fatto una visita dall'oculista, per aver comprato, che ne so, un orologio non eccessivamente costoso da un gioielliere, magari 100, 200, 300, 400 euro. È raro che si superi 1000 euro. 1000 euro si superano quando si va a comprare una macchina, ma quelli sono tutti transazioni che sono effettivamente fatturate, in cui è difficile in realtà poi andare ad evadere. Dunque, mettere una soglia così elevata, 1000 euro, per questi pagamenti, è veramente inutile. Inutile perché la maggior parte di quei, potremmo dire che il 99% delle transazioni che si fanno e su cui si evade sono inferiori ai 1000 euro. Non sono comunque cifre irrilevanti, perché anche dover togliere 200-250 euro senza far pagare le tasse a chi li guadagna è chiaramente un grosso colpo. Ricordiamo che l'evasione fiscale, secondo gli ultimi calcoli, ammonta a circa 300 miliardi di euro all'anno in Italia. Ricordiamo che il debito pubblico è di 1900 miliardi, questi sono i valori che si attestano agosto-settembre, quindi a pochi mesi fa. In pratica basterebbe recuperare anche il 50% dell'evasione fiscale annuale per abbattere nel giro di 10 anni il debito pubblico dell'Italia, che è stato, diciamo, il principale responsabile della crisi in cui noi ci ritroviamo e in cui l'Italia si è ritrovata dopo tanti anni in cui il debito è cresciuto in maniera esponenziale, in cui si è lievitato fino ad arrivare ad essere il terzo debito pubblico mondiale. Detto questo, mi fanno segno dalla regia che siamo quasi agli sgoccioli, oppure abbiamo ancora qualche altro minuto per poter... Eh sì, allora mandiamo un'altra... dalla regia mi invitano a lanciare un'altra canzone. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and down, throw my hands up and down, throw my head back and down. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. E siamo di nuovo in diretta, stiamo parlando ancora della manovra. Poco fa, durante diciamo, la presentazione della manovra Monti, si parlava di IVA, dell'aumento dell'IVA, che già era stato, in primo momento già era stato deciso quest'estate da una delle manovre balneari del governo Berlusconi, e altri aumenti dell'IVA e delle accise sulla benzina sono stati combinati grazie a questa nuova manovra. Ora, si diceva prima, per l'appunto, sì, aumenta la benzina, già questo è un disastro. Il fatto che aumenti la benzina, non soltanto l'IVA, che tra l'altro poi aumenta sia sulla benzina che su altri beni, questi aumenti non si ripercuotono soltanto sull'aumento del carburante, quindi sui costi dei trasporti, quindi costa di più viaggiare con l'auto, costa di più viaggiare anche con i mezzi pubblici, perché di qui a pochi aumenteranno anche i biglietti, chiaramente. Di autobus sono già aumentati comunque, no? Quei bei 3 euro per un biglietto giornaliero, io intendevo dire che aumenteranno ancora, perché aiuto, allora ci devo lasciare il mio rene per muovermi in questa regione. Quindi già questo è abbastanza grave. Si diceva oggi, non so quale telegiornale, forse quello di La Sette, che costerà di più fare un pieno alla propria auto che il cenone di Capodanno. In realtà il problema più grave non è questo, che già di per sé è abbastanza grosso. Il problema è che quando aumenta la benzina, aumenta tutto il resto. Perché? Perché tutto ciò che noi utilizziamo dalla mattina alla sera, per esempio i nostri bicchieri di plastica, per esempio qualsiasi prodotto che viene confezionato con imballaggi di cartone o cellophane e altro ancora, tutto ciò viene ad essere prodotto all'interno delle industrie che ovviamente per poter produrre, oltre alle materie prime, hanno bisogno di energia. L'energia si produce a partire dai carburanti, quindi dai derivati del petrolio. Se aumenta il loro prezzo, aumenta il costo dell'energia, aumentano i costi di produzione, che poi chiaramente i produttori scaricano sui consumatori. Non solo, le arance siciliane che vengono prima trasportate in Emilia Romagna, quindi impacchettate, confezionate, poi rinviate in tutta Italia, quindi anche in Italia e anche in Sicilia, questo è un grande paradosso del sistema produttivo, costano di più. Perché? Perché di mezzo c'è il trasporto su gomma, quindi il trasporto fatto attraverso i camion costerà di più in quanto costi più la benzina. Cosa voglio dire con tutto questo? Che noi non soltanto ci ritroveremo a dover pagare molto di più in termini di carburante per poter andare da casa nostra all'università, da casa nostra al cimitero, da casa nostra all'ospedale, ma pagheremo di più, scusate gli esempi macabri, ma chiaramente questa manovra è una manovra molto lacrime e sangue, pagheremo di più tutto, l'aumento del costo dei carburanti si ripercuote sui trasporti, si ripercuote sui beni di prima necessità, si ripercuote su tutto, si ripercuote anche sulle bollette che dobbiamo pagare all'ENI, all'Enel o gli altri gestori di elettricità dell'elettricità. Quindi insomma, aumentano le tasse sulla benzina e l'IVA, c'è la tassa dell'IMU che quindi ristabilisce in sostanza l'ICI. C'è la distruzione dell'età pensionabile, che in sostanza noi non vedremo mai la pensione, questa è la morale, e Monti ha pure assicurato di voler tornare sull'argomento dell'articolo 18 del mondo del lavoro, quindi aspettiamoci un'altra bella batosta. E insomma, queste qua sono tutte belle paccarelle che ci prendiamo noi, ma quindi abbiamo capito che questa manovra è lacrime e sangue, ma è lacrime e sangue per chi ha già pagato questa crisi. E chi di questa crisi ne sente più i morsi. Di conseguenza, voglio dire, alla fine il governo Monti, che nessuno ha votato, il governo Monti che si è autoimposto rispetto per risalvare l'Italia, quello che sta facendo è mettere gli italiani, affossare i cittadini italiani, quelli che fanno fatica ad arrivare a fine mese, adesso inizieranno a non riuscire neanche più a iniziarlo al mese, no? Sì, si fa per molte famiglie l'Istat crede che già soltanto l'IMU possa aumentare il rischio di povertà per 1,6 milioni di famiglie. 1,6 milioni di famiglie, facendo una media di 4 persone a famiglia, padre, madre, due figli, che è più o meno la media, significa 6,4 milioni di persone, quindi più del 10% della popolazione italiana rischia soltanto con la reintroduzione dell'IMU di scendere sotto la soglia della povertà. Infatti mi ricorda molto una notizia che ho letto qualche tempo fa in un giornale veneto. Sapete che io ho questo difetto, che sono nato in Veneto e in cui c'era la Caritas veneziana che si diceva sbalordita perché adesso anche i padri di famiglia, quelli separati magari, quelli bianchi per capirci, quelli candidi, vanno a cercare asilo e vanno a cercare l'aiuto della Caritas. Questo è molto semplificativo, per loro era scioccante chiaramente, perché c'è a un certo punto pure quelli della Caritas, con tutto il bene che gli si può volere, però qualche difetto ce l'hanno pure loro e non... Cioè, insomma, gli dava fastidio il colore, il bianco. Vedere così tanto bianco a un certo punto li ha spaventati. Comunque, la cosa peggiore, appunto, dicevamo, di questo governo è che al suo interno è un sostegno unanime. Basta pensare che il PD, oltre ad appoggiare queste manovre lacrime e sangue, sempre lacrime e sangue per i poverelli, ha appoggiato pure l'ultima manovra di Berlusconi, la finanziaria che doveva salvare i mercati, salvare il mondo, anche quella finanziaria che ha preparato il terreno di devastazione che è finito con l'ultima manovra Monti, che è iniziato ieri l'iter in Parlamento. Quindi il PD ha già detto noi appoggiamo la manovra, però critichiamo, quando ci fu la manovra Berlusconi, il PD disse noi appoggiamo la manovra ma critichiamo il governo, cioè se ci fosse stato di noi il governo avremmo fatto le stesse cose, chissà ti voglia dire. Il PDL in sostanza ha avuto tutto di, il centrodestra ha avuto tutto tanto di guadagnato dal fatto che è arrivato il commissariamento Monti, perché ha fatto finta di essere stato depauperato, ha fatto finta di essere stato spodestato. In realtà anche nelle dinamiche parlamentari loro si erano approvati un paio di manovre che erano già in perfetta continuità con il governo Monti, quindi questa posizione di facciata che hanno fatto al governo è stata semplicemente per lavarsi la coscienza di fronte agli italiani, per dire che quello che fa Monti in sostanza loro non l'avrebbero fatto perché loro sono più buoni e cari. Ma il problema adesso, come sempre, è anche dire e mo che facimo? Detto questo, c'è la CGIL che dopo un periodo in cui è sembrata determinata a voler dare battaglia al governo, ma stiamo parlando di più di un anno fa, è ritornata a sedersi insieme agli altri sindacati confederali ai tavoli della concertazione, ai tavoli degli accordi, e accordi ha chiamato uno sciopero generale contro questa manovra che metterà i cittadini italiani, inizierà a fare affogare. Ha chiamato per il 12 dicembre uno sciopero generale di ben 3 ore. La cosa bella è che dopo questa manovra lacrime e sangue per noi, fa uno sciopero di 3 ore. L'ultimo sciopero generale che aveva fatto era di 4, cioè man mano che peggiorano le condizioni diminuisce lo sciopero generale. E cosa ne pensi, Pierpa? Penso che se non altro questa volta qui il governo Monti ha avuto la forza di riuscire ad unire CGIL, CISL, UIL, addirittura l'UGL, perché lo sciopero sarà addirittura uno sciopero collettivo di tutti le 4 sigle sindacali confederali più importanti. Uno sciopero che definire ridicolo è fin troppo riduttivo. Per correttezza devo dire che la quarta sigla sindacale per numero di iscritti è l'USB, l'UGL è sempre portata agli onori della cronaca, sono un po' salto perché è sindacato di alcuni padroncini di destra. Intendevo delle confederali classiche. Comunque, i sindacati più che altro cosa stanno chiedendo? Stanno chiedendo la perequazione fino a 1.400 euro per le pensioni. Tra i provvedimenti della manovra, già ne abbiamo parlato, c'è il blocco dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione, cosa che per fortuna scatta automaticamente anno per anno, cioè ogni anno sulla base dell'inflazione le pensioni vengono ad essere aumentate proporzionalmente all'aumento dell'inflazione. In realtà poi qui bisognerebbe dire che è una buffonata anche questa, perché l'aumento delle pensioni commisurato all'inflazione ufficiale misurata dall'Istat in realtà è insufficiente, in quanto l'inflazione ufficiale è sempre di pochi punti percentuali, quella reale, quella avvertita realmente dai portafogli degli italiani è sicuramente maggiore, cioè significa che ogni anno che passa, nonostante questo piccolo adeguamento dei salari, delle pensioni, il potere d'acquisto degli italiani diminuisce sempre. In questo caso qui si vuole andare ancora oltre, si vuole fare ancora di peggio, cioè praticamente bloccare questo adeguamento. In pratica il costo del pane aumenta, il costo della benzina aumenta, il costo del latte, della carne, dei vestiti, di tutti i beni di prima necessità, non delle barche, dei jet privati e delle crociere, aumenterà a dismisura. Le pensioni rimarranno praticamente bloccate, questo per le pensioni che non siano quelle minime, fino a 900 euro circa. Bene, i sindacati chiedono almeno fino a 1.400 euro che si mantenga questo sistema di adeguamento all'inflazione, cioè che a pagare siano soltanto quelli che non sono poveri. Circa il 30% dei pensionati, infatti, ha delle, ancora secondo l'Istat, il 29,8% ecco, dei pensionati, 2,4 milioni, sono poveri, cioè praticamente hanno una pensione inferiore a 915 euro. Quindi stiamo parlando veramente di dati allarmanti. Per esempio, si potrebbe, mantenendo il saldo invariato, ecco, cosa che non appartiene, diciamo, al nostro pensiero, noi rivendichiamo il diritto all'insolvenza, perché chiaramente questo debito pubblico che schiaccia gli italiani non è stato provocato da noi, specialmente dalle nuove generazioni, ma più che altro da quelle classi dirigenti politiche corrotte che hanno portato al lastrico l'Italia. Per esempio, i soldi si potrebbero trovare magari mettendo una piccola patrimoniale sui grandi patrimoni o su quelli che sono le grandi grandissime aziende del paese, che poi, guarda caso, sono gli stessi che evadono le tasse. E ci ricolleghiamo al discorso di prima. Oppure potremmo fare anche che, visto che questo debito, il problema del debito pubblico, e visto che il debito pubblico è stato creato per la speculazione di molti, anche di molti gruppi bancari, potremmo pure fare una cosa, tipo, che so, se la responsabilità del debito è dei gruppi bancari, nazionalizziamo i gruppi bancari. Cioè, alla fine, se tu sbagli e mi metti nell'astrico un intero paese, uno giustamente dice, vabbè, ti nazionalizzo, e buonanotte, insomma. Mentre invece questa manovra pone dei cuscinetti e delle misure di protezione proprio nei confronti delle banche, uno dei motivi per cui in questi giorni la borsa ha ottenuto dei buoni risultati, per cui lo spread dei titoli di Stato italiani decennali è sceso, sta proprio nel fatto che il governo Monti ha messo in atto delle misure di protettive nei confronti delle banche, in particolar modo Unicredit e Banca Intesa San Paolo, che sono piene fino all'orlo di titoli di Stato italiani, e proprio per questo infatti i mercati hanno reagito positivamente, il che la dice lunga su cosa significhi praticamente. Tu dici giustizia, insomma, la giustizia sociale, sì. Su cosa significa far sì che la politica sia al traino dei mercati e dei grafici che vengono fuori da Wall Street piuttosto che da Piazza Affari, da qualsiasi altra borsa dell'Occidente. E infatti, alla fine c'era questa riflessione interessante. Piazza Affari vola, lo spread cala e le nostre vite vanno sotto zero, diciamo che la questione non è più una questione di numeri. Allora è bene che ci riprendiamo l'agire politico e ritorni a parlare dei bisogni delle persone. E quindi per questo, diciamo, Monti, non ci hai convinto. Bene, signori, Banda Armata è terminata dopo aver fatto una puntata interamente sulla manovra Monti, sulla manovra del governo Monti. Ora, quindi, si può chiudere la puntata con la sigla, ma prima voglio dire una cosa. Bisogna avere la riappropriazione e l'abbattimento dei mezzi di produzione. Sigla. Che gesticola con le armi, e tra i nuovi santi illuminati al neo sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è? Colpo di Stato, ed intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, lenti incriminati che si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è giunta dalla provenienza del scempio, tu che stringi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mai. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è? Colpo di Stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità,